Gesù ha guarito per l'ennesima volta, o ha compiuto per l'ennesima volta, un altro miracolo di esorcismo. E in quell'occasione Gesù ha ancora una volta testimoniato della sua origine divina. Quello che Gesù voleva insegnare ai suoi discepoli è che quella piccola fede che assomiglia molto a un granello di senape non rimanga un piccolo granello di senape, ma che abbia uno sviluppo. È attraverso questo sviluppo che il credente si rafforza ed è pronto ad affrontare situazioni sempre più difficili. Così come Gesù ha affrontato questo indemoniato, questo giovane indemoniato che era posseduto dal demonio a tal punto da renderlo una larva. E il padre era disperato. E il padre si era rivolto prima ai suoi discepoli e i discepoli non sono riusciti a scacciare. E Gesù li rimprovera aspramente, dicendo: uomini di poca fede, per quanto tempo vi devo sopportare? È abbastanza duro Gesù. Se aveste un granello di senape, dice Gesù, la vostra fede assomigliasse a un granello di senape, voi potete dire a questo monte: ehi, spostati da quella parte, il monte si sposterebbe. Stiamo attenti a non prendere per la lettera queste parole. Quello che Gesù vuole dire è che se la vostra fede viene alimentata continuamente dalla parola, dalla mia presenza, allora voi potete senz'altro affrontare situazioni sempre più difficili. E poi aggiunge Gesù: questo tipo di demoni possono essere scacciati se non con la preghiera e il digiuno. Quindi la preghiera è alla base della vita del credente. Se il credente non prega, se il credente non ha a che fare con questo aspetto importante della vita spirituale cristiana, allora è un credente, come dire, un credente nominale, uno che dice di essere cristiano, che in effetti non vive quelli che sono i principi della fede cristiana. Un po' come il corpo: se noi non mangiamo, il nostro corpo si indebolisce. Un po' come quella ragazza anosserica. Anoressica, scusami. Anoressica, brasiliana, che si è lasciata morire proprio perché pensava che bisogna avere un fisico asciutto e quindi non rispettava le regole dell'alimentazione, e questo ha causato la morte. E così anche per il credente: se non prega ci sarà la morte spirituale. Cioè, può senz'altro parlare di Dio, può forse ingannare gli altri, ma senz'altro non ingannerà Dio stesso. E poi chiaramente i risultati si vedono nei rapporti interpersonali. Gesù si reca adesso a Capernaum, forse per l'ultima volta. Capernaum, ricordiamo, è Cafarnao, tanto per intenderci, è la città, come dire, il quartiere generale di Gesù, era il posto dove si riuniva con i suoi discepoli, si incontrava con i suoi discepoli, era diciamo, il posto di orientamento, ed era la casa di Pietro. Quindi Gesù si reca a Capernaum. E lì ancora una volta i discepoli, i farisei, attaccano indirettamente Gesù. E vediamo come. Allora, leggiamo nel capitolo di Matteo, capitolo 17 dell'Evangelo di Matteo, i versetti 24-27. Allora, forse è un passo che tutti noi senz'altro conosciamo, o se lo conosciamo, lo conosciamo forse in parte. Quando furono giunti a Capernaum, quelli che riscuotevano le didramme si avvicinarono a Pietro e dissero: il vostro maestro non paga le didramme. Egli rispose: sì, il maestro li paga. Quando fu entrato in casa, Gesù lo prevenne e gli disse: che te ne pare, Simone? I re della terra da chi prendono i tributi o l'imposta? Dai loro figli o dagli stranieri? Dagli stranieri, rispose Pietro. Gesù gli disse: i figli dunque ne sono esenti. Ma per non scandalizzarli, va al mare, getta l'amo e prendi il primo pesce che verrà su. Aprigli la bocca, troverai uno statere. Prendilo e dallo loro per me e per te. Probabilmente quando noi leggiamo, sentiamo un episodio di questo genere, forse la nostra reazione è una reazione, come dire, di chi ascolta una favola. Cioè, vedere Gesù dire a Pietro: vai, il mare sarebbe il lago di Tiberiade, cioè vai al lago, prendi l'amo, il primo pesce che prendi, nella sua bocca troverai una moneta, e con quella moneta tu pagherai l'imposta che è dovuta al Tempio. Ci sembra una cosa abbastanza, come dire, fantastica, ma forse non lo è fantastica come noi crediamo. Gesù vuole insegnare qualcosa di molto importante ai discepoli, ma soprattutto ai farisei. Allora, era comune che gli ebrei pagassero un'imposta, cioè una tassa, annualmente per quello che era il mantenimento del culto ebraico, tutto quello che riguardava la vita cultuale del Tempio. E questa tassa annuale viene presa da Esodo, capitolo 30. Questa tassa annuale era di un didramma. Oggi didramma sarebbe, che possiamo dire, diciamo un 40 euro, 50 euro all'anno. Quindi 50 euro all'anno erano 100 euro, Pietro e Gesù. Quello che i farisei forse temevano, siccome Gesù dava loro prova di essere un rivoluzionario, uno che stava cercando di buttare sotto sopra tutto quello che era la tradizione giudaica, soprattutto quelle le cose cerimoniali, i precetti culturali dell'alimentazione, ad esempio. Ricordiamoci quel detto molto scherzoso che non è il cibo che contamina l'uomo, vi ricordate? Perché il cibo viene assimilato e poi va, quello che non serve, nella latrina. Ma quello che contamina l'uomo è quello che c'è dal di dentro. Quindi chi ascolta cose di questo tipo, gli ebrei, i sacerdoti, gli scribi, è chiaro che si mette in allarme. Questo ci vuole proprio rovinare, cioè vuole rovinare le nostre tradizioni. Quindi allora sorgeva il dubbio se anche per quanto riguarda l'imposta, la tassa, non la pagasse. Invece Gesù dà prova di grande coerenza con quello che lui stesso predicava. Se c'era da attaccare qualcosa che riguardava l'onore e la dignità di Dio, Gesù si arrabbiava di parecchio e non usava mezzi termini per poter bastonare i farisei. Ma per quando si riguardavano quelle cose che senz'altro a suo tempo poi avrebbero avuto una piega diversa, come ad esempio il pagamento dell'imposta del Tempio, allora Gesù ha voluto dimostrare a loro che era ossequioso delle leggi ebraiche. Però ha voluto insegnare anche qualcos'altro, che forse non cogliamo subito. Perché Gesù dice a Pietro: i re della terra, in questo caso chi sono i re della terra? Oggi le monarchie sono quasi contate sulle dita delle mani. Una delle monarchie più famose è quella della Gran Bretagna, abbiamo dei rappresentanti. Allora, la regina Elisabetta II, con Carlo e tutto il seguito reale, loro non pagano le tasse. O pagano? Qualcosa pagano, sì, ma non tutto. Tutte le pagano. Va bene, allora qualcosa è cambiato nelle monarchie moderne qualcosa è cambiato. Nei tempi di Gesù non era così. I monarchi e i figli dei monarchi, i parenti dei monarchi non pagavano le tasse. Chi pagavano le tasse erano i sudditi, la gente che subiva la monarchia. Ora dice: se i figli ne sono esenti, tanto a maggior ragione il figlio di Dio. Gesù paragona Dio come un monarca e lui si definisce il figlio del monarca. Quindi lui era esente dal pagare le tasse, quelle tasse che servivano a rendere il culto a Dio, di cui lui era l'unico vero rappresentante. Ed è veramente qui il senso dell'umiltà del Signore, che pur avendo il diritto di non pagare le tasse, lui mostra un segno di coerenza e di esempio ai discepoli di non violare quelle regole che possono senz'altro essere cambiate in futuro, ma che devono essere osservate per non scandalizzare, dice. E quindi Gesù dice: va bene, e qui compie un grande miracolo. Alcuni dicono che Gesù stia scherzando. In quei tempi già circolavano diverse favole intorno, o storielle intorno a pescare pesci di questo tipo, da dove vengono tirati fuori i soldini. Ma Gesù non stava scherzando, non mi sembra che stesse scherzando. Gesù ha voluto dimostrare con quel miracolo ancora una volta un segno della sua divinità. Lui è il Signore, il creatore di ogni cosa, dei pesci, degli uccelli, di ogni cosa che respira. E lui è somma sapienza. È vero che forse dalle nostre parti non sono accadute, ma nelle parti del lago di Tiberiade sembra che i pescatori abbiano trovato dei pesci, perché chiaramente qualcuno perderà qualcosa, andranno con al lago, e per cui questi pesci inghiottano quelle monete o anche oggetti d'oro. Gesù ha voluto dimostrare ancora una volta la sua provenienza divina. Ma quello che importa non è tanto il fatto che Gesù voleva parlare di se stesso. Quello che Gesù voleva dire ai suoi discepoli, a Pietro innanzitutto, è che bisogna essere rispettose di certe regole, anche se non li condividiamo, e che saranno in seguito modificate. Ad esempio, negli anni 70 il Tempio sarà distrutto. Il Tempio giudaico viene distrutto dalle forze imperiali romane e non sarà più costruito. Oggi a Gerusalemme rimangono i ruderi, il cosiddetto muro del pianto. E quella tassa, stranamente, e anche se volete dire beffardamente, quella tassa che veniva pagata dai giudei per il Tempio del Signore, i romani l'hanno devoluta per il pagamento del Tempio di Giove Capitolino, che era un dio romano pagano. Capite? Quindi il Signore porta avanti il suo disegno, rompe tutto quello che è di legalistico, ma ci vuole il suo tempo. Ora noi, per esempio, se entriamo in una chiesa dove esistono regole abbastanza, come dire, strette, quale sarà la nostra reazione? Ad esempio, scusate se prendo ancora il discorso dei pantaloni, non è che... Sì, esatto. Cioè, in quella chiesa esiste il fatto che le donne non devono portare i pantaloni, ma devono portare la veste. Allora, mia moglie si presenta con i pantaloni, volutamente. Ecco, lei sta facendo un'opera di scandalo, perché nella chiesa in cui esistono certe regole li deve rispettare per non scandalizzare. A poco quelle regole forse in futuro saranno modificate attraverso il dialogo, attraverso quella che è la nostra riflessione su certe cose, ma non di punto in bianco io vado lì e sconvolgo tutta la vita di quella chiesa. Faccio un altro esempio. Entro in una chiesa cattolica dove ci sono il culto delle statue. La gente accende i lumini nelle statue e questo mi fa sentire arrabbiatissimo. Allora prendo la statua e la rompo. A parte il fatto che mi portano in galera per aver violato, ma è un gesto inconsulto, perché io vado a casa di un altro e cerco di imporre le mie leggi o le mie visioni. Quello che il credente deve imparare e quello che il Signore vuole che noi impariamo è di essere rispettose di quelle che sono le regole cultuali di altre chiese. È molto molto molto importante. Un'altra cosa che il Signore vuole insegnare, ad esempio, cosa? Il Signore provvede. Il Signore provvede per i nostri bisogni, per quelle che sono le nostre necessità, perché Lui è il Signore, nella sua somma sapienza. Qualcos'altro che ci insegna da questo passo cosa? Cosa ci può ancora insegnare il Signore da questo passo? Quindi rispetto provvidenza, anche i credenti non sono più esentati da quella che era la responsabilità che avevano i giudei nel mantenimento del culto. Anche i credenti, nella libertà che il Signore ha dato, sono chiamati a sostenere quello che è lo sforzo della proclamazione dell'Evangelo, i bisogni che stanno dentro una comunità che annuncia l'Evangelo. Quindi il Signore non ci ha esentati da quella responsabilità. Il Signore ci ha invece donato un senso di libertà che è responsabilità per quella che è la proclamazione del Vangelo della libertà. Quindi ogni credente è chiamato a donare qualcosa delle sue, dei suoi possessi, affinché l'Evangelo venga annunciato. Se queste cose non vengono fatte, se queste cose vengono disattese, la comunità inizia a morire. Quindi rispetto per le regole in gioco, per non scandalizzare gli altri. Faccio un esempio, ancora per quanto riguarda il rispetto. In alcune comunità, soprattutto comunità americane, non usano nelle chiese e soprattutto anche nelle case, non usano bere alcol o vino. Quello che hanno fatto gli americani, hanno fatto un grande errore, perché quando sono venuti in Italia hanno cercato di imporre le loro visioni, e questo è irriverente e irrispettoso verso una cultura straniera, perché hanno cercato di stabilire quelle che sono le loro regole. Ma se io vado comunque in una delle loro comunità, io non posso dire adesso mi dovete offrire vino perché in Italia io bevo vino, oppure adesso dobbiamo bere, prendere la Santa Cena con il vino perché nella scrittura c'è scritto che la Santa Cena va presa col vino, perché in alcune culture anglosassone, ad esempio anche in Inghilterra, non usano il vino ma usano il succo d'uva. È vero, in Inghilterra? Eh? È vero che, perché anche da mio suocero usano il succo d'uva. Cioè, anche da voi? Anche da voi? Nella chiesa anglicana usano il vino o il succo d'uva? Vino. Ora se io vado in una chiesa del genere dico no, bisogna che ci sia il vino perché altrimenti non è valida la Santa Cena, cioè qui c'è da sconvolgere quelle che sono le regole in gioco, quindi il rispetto per quello che è la spiritualità o le tradizioni di una chiesa rispetto a un'altra chiesa, esatto, se io voglio vivere in quella chiesa, se io voglio inserirmi in quella chiesa. Nello stesso tempo le persone che arrivano da altre culture cristiane e da altre tradizioni non devono venire in un'altra chiesa dove quelle tradizioni non sono, come dire, praticate, devono venire a imporre quelle che sono la loro visione. Ecco, quindi rispetto assoluto per non scandalizzare. Sperare nella provvidenza del Signore. Questa è una cosa che noi tutti dobbiamo imparare. Cioè io in prima persona a volte mi spavento quando ci sono delle bollette. Se fosse soltanto le bollette sarebbe quando ci sono problemi grossi, il Signore è lì presente. Il Signore conosce i nostri bisogni, previene prima che noi glielo diciamo. Lui sa, ma vuole la nostra fede. E la terza cosa che non dobbiamo dimenticare è sostenere i bisogni della proclamazione dell'Evangelo. Non c'è nessuna tassa, come nell'Antico Testamento avevano messo i giudei, di cui gli scribi e i sommi sacerdoti, e i sacerdoti erano esenti. Non ci sono le ditrame, non devi pagare 50 euro all'anno per il mantenimento, una tassa fissa per il mantenimento del culto. Ma il principio comunque resta valido. Il Signore ci chiama a donare qualcosa dei nostri bisogni, delle nostre tasche, perché possiamo sostenere l'opera del Signore. Fiumi d'acqua viva, dice il Signore, sgorgeranno dal cuore di chi crede. E i frutti di questo continuo movimento dello Spirito del Signore nel credente porta senz'altro a risultati svariati. Allora, in questo cammino che stiamo facendo col Signore, da più quasi adesso da quasi un anno che stiamo cercando di meditare sulla persona, sull'insegnamento e sulle opere del Signore Gesù, prendendo come testo base l'Evangelo di Matteo. Quindi è da un anno che stiamo meditando chi è Gesù, ricordandoci di quello che Gesù ha detto ai suoi discepoli: chi dice la gente che io sia? E chi dite voi che io sia? Dalla risposta che noi diamo, e non soltanto dalla risposta che è soltanto un'affermazione, ma anche dalla reazione che noi abbiamo nel lodare il Signore, nel rendere il culto dovuto al Signore, nel dipendere da Lui, nell'essere in comunione con Lui, dipende il nostro futuro di essere cristiani. Amen.